Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Fegato, dicono. Quelli conoscono soltanto fegato alla veneziana con cipolla. E presto mangeremo anche noi quello. Dunque, dove? No, dico, cosa c'entra questo? Prego. Aggiù. Stai buono. E allora, senti un po', visto che parli così, mi te disi proprio un bel niente. Hai capito? Faccia de merda! Coppelmeiser! Beh, non è certo forse la maniera più gradita a tutti quella di parlare il giorno del 2 giugno dell'episodio clou del film di Mario Monicelli, La Grande Guerra, quella in cui uno dei due strampalati combattenti della Prima Guerra Mondiale, interpretato da Gassman, colto nel vivo dall'insulto del soldato austriaco che dice: voi l'unica cosa che conoscete che abbia a che fare col fegato è quello alla veneziana, improvvisamente fa il gesto che lo porterà assieme ad Alberto Sordi davanti al plotone d'esecuzione. Erano due normalissimi italiani, un romano e uno del nord, buttati dentro la Grande Guerra senza nessuna volontà, nessuno spirito di adesione al combattimento, e alla fine sono rivelati due eroi esattamente come gli altri eroi, che hanno scelto volontariamente di affrontare il plotone d'esecuzione per il gesto di Gassman. Perché non so, qualcosa in loro si è poi improvvisamente risvegliato. Beh, oggi vorremmo parlare di quelli che sono i sensi da attribuire al apparato militare che vedrete sfilare in televisione lungo la strada tracciata apposta per dare significato e set adeguato alle forze armate. Anche oggi sfileranno le forze armate, anzi sono già sfilate per chi ci ascolta, e oggi riflettiamo sul senso dell'eroismo. Cosa rimane degli eroi? Cosa rimane dei padri della patria? Beh, rimangono dei ricordi legati a degli oggetti. Degli oggetti che sono sempre gli oggetti rituali, gli oggetti che appartengono comunque alla classe iconografia che racconta e che incorpora in sé l'eroismo. Smao Research to Business ti aspetta a Bologna Fiere il 9-10 giugno. www.smao.it vi presenta. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13.45, hashtag Autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13.15, Container, con Massimo De Donato. Melog. Cronache meridiane. La bara di Giuseppe Mazzini. Il coperchio della bara di legno di pino che contenne Giuseppe Mazzini fu classificato e dotato di expertise, ma restò occultato nei sotterranei del Vittoriano. La fattura è grossolana e la sagomatura è tipica di una cassa destinata all'infossatura nel terreno per morti non abbienti. Nel caso di Mazzini, questo presidio cimiteriale fu usato principalmente come il tavolo anatomico su cui fu posto il cadavere del padre della patria perché fosse imbalsamato. Per questo fu chiamato da Lodi il professor Paolo Gorini, matematico e scienziato, noto preparatore di cadaveri che pietrificava, con un procedimento da lui stesso inventato e il cui segreto si portò nella tomba. Quando il Gorini arrivò a Pisa, Mazzini era già morto da 2 giorni e si stava decomponendo. L'imbalsamatore poté solo disinfettare la salma per bloccare l'avanzare della putrefazione. Il cadavere, anche se non pietrificato, fu comunque esposto, ma fu presto ritirato. Molti si erano lamentati del lezzo che emanava, effetto imbarazzante per chi sarebbe dovuto essere morto in odore di santità, seppur laica. Ciò che restava di Mazzini finì così per essere tumulato a Staglieno. Marco Pizzo, buongiorno. Buongiorno. Marco Pizzo è direttore del Museo Centrale del Risorgimento a Roma. Lui vive dentro il Vittoriano, che è il punto apicale dove arriva la sfilata del 2 giugno. Tu ogni anno praticamente vedi sfilare le forze armate davanti al tuo ufficio, alla tua postazione all'interno del Vittoriano, dove stanno tutte le vestigia della patria, soprattutto quelle legate al Risorgimento. Dentro c'è anche la bara di Mazzini. Dentro c'è anche la bara di Mazzini, dentro c'è la bara del Milite Ignoto e dentro al Vittoriano ci sono tutte le bandiere dei corpi disciolti delle forze armate. Cioè il meccanismo simbolico della nazione, fondamentalmente il Vittoriano. Dici il sistema operativo, diciamo il cuore che muove tutto quello che anima con sentimenti profondi, sentiti per chi li sente, con sentimenti di superficie, con un senso di moderna irrisione per molte persone, comunque la sfilata del 2 giugno, le forze armate che sfilano traggono la loro forza vitale da tutto quello che è racchiuso dentro il Vittoriano, che appunto è un sacrario. Infatti il Vittoriano nasce altare stesso, lo dice la parola, altare della patria. Cioè, quali sono i meccanismi simbolici che in qualche maniera servono a raccontare l'Italia? Il Vittoriano nasce proprio con questo scopo, cioè quello di conservare tutti i cimeli che in qualche maniera potessero costruire l'ideologia di questa religione della patria laica, dai padri fondatori, quindi Mazzini, Garibaldi, abbiamo i pantaloni di Garibaldi, la pallottola conficcata nel piede di Garibaldi sulla Spromonte, cioè tutti gli oggetti che servivano a costruire questa religione della patria almeno fino all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, da cui il momento in cui c'è una crisi di sistema. Cosa è simbolico per la patria? Ecco, non si è più tanto capito cosa era simbolico per la costruzione della Repubblica. Questa è una riflessione che spesso abbiamo fatto, ma vale la pena rifarla anche oggi, Marco Pizzo. Ci rendiamo conto che il fondamento ideologico su cui nacque la patria, l'idea d'Italia risorgimentale, era un fondamento totalmente laico, quasi massonico, direbbe qualcuno, eppure recupera gli stessi parametri, gli stessi sistemi di immagazzinamento del valore che hanno le religioni. In fondo si costruiscono delle reliquie laiche, si dà un valore di virtù eroica a delle persone che rimane impressa in degli oggetti. Nei jeans di Garibaldi che avete esposti, dei jeans veri di Garibaldi, perché usava i jeans essendo genovese, essendo quella la tela che usavano i marinai genovesi del periodo in cui si produsse Garibaldi, sono nell'idea dei fondatori della nostra idea di patria unita, avevano lo stesso valore che una reliquia di un santo. Erano imprigionate della forza vitale e della grazia dell'eroe. Sì, cioè questa veramente una religione laica, ma che si serve degli stessi meccanismi. Anche il corpo, noi abbiamo il sangue dei martiri, la giubba in cui fu condotto al martirio Cesare Battisti o Nazario Sauro. Ecco, mantenere per contatto un pezzo della reliquia era in qualche maniera mantenere salda la virtù eroica di chi l'aveva posseduto. Ecco, dacci qualche segnale di lettura rispetto alla sfilata del 2 giugno che la gente vede in televisione, vede passare le forze armate. Il fatto che i vari battaglioni, i corpi che sfilano, siano portate in maniera molto solenne le bandiere. Qual è il significato della bandiera? Allora, la bandiera rappresenta l'identità del corpo, quindi i bersaglieri, eccetera. Ma la cosa fondamentale non è tanto il vessillo, cioè il tricolore, ma è l'asta e il puntale che regge il vessillo, in cui di fatto è raccontata la storia della divisione. Ma dove dentro si svita c'è una... No, sopra la bandiera c'è una sorta di punta di metallica. Punta. Questa punta metallica nelle quattro facce c'è raccontata, scritta, incisa la storia di quel reparto. Diciamo, è il culmine più importante, diciamo. È il Sancta Sanctorum, è il puntale freccia. Tant'è che il vessillo di per sé può essere anche cambiato nel corso degli anni. Quello che importa è l'asta. E lì è la storia dell'esercito, la storia della forza armata. È quella che viene difesa fino all'ultimo sul campo di battaglia. Se il nemico si impossessa di quella, si impossessa dell'anima dell'esercito che viene sconfitto, praticamente. Tant'è che tutte le forze armate, nel momento in cui cessa un vario reparto, consegnano la bandiera, e questo punta le frecce, al sacrario delle bandiere. Ora, anche qui, in Italia c'è poca sacralità del tricolore. I primi tricolori italiani che stanno al museo di Reggio Emilia, di Milano, eccetera, in qualche maniera rappresentano la storia del tricolore della bandiera, ma la bandiera in quanto tale in qualche modo è poco insita all'interno della nostra cultura nazionale. Sì, anche perché è stata usata in maniera politica da diciamo forze politiche, parlamentari, hanno messo, mettere il tricolore nel proprio stemma, nel proprio simbolo, era già un segno di appartenenza, non so, di appartenere a un pensiero conservatore, di destra e via dicendo. Questo ha fatto sì che tutta l'altra metà del pubblico italiano dice: no, la bandiera significa essere di destra, quindi rifiutiamo la bandiera. In realtà la bandiera dovrebbe essere per tutti. Ma infatti questo associazione tra tricolore e in qualche maniera cultura di destra è quella che faceva sì che il tricolore, la cultura di destra, era identica alle forze armate. Le forze armate erano, tra virgolette, di destra. Da poco si è in parte sdoganata questa idea, e quindi l'esercito è visto... È di tutti, ma per la sua attività quasi di salvatore della patria, ma anche... Intervento civile, nelle calamità... Ma perché attualmente c'è... Si è svolto un superamento di questa divisione. Il crollo della Prima Repubblica in qualche maniera ha portato una riacquisizione di alcuni valori che sono anche quelli delle forze armate come idea della nazione. Sì, ma anche come corpi specializzati, è diventato un mestiere. Forse da quando è finita la leva obbligatoria, cominciò a diventare un mestiere specializzato, che fa militare come facesse l'ingegnere, il medico, qualsiasi altro tipo di lavoro, quindi è meno vista come qualcosa. Io penso che molto dipendesse anche dalla obbligatorietà della naja. Fare la naja non veniva considerata certo una cosa né eroica né che si facesse molto volentieri. Ecco, invece il servizio militare obbligatorio, qual è il senso che aveva di andare a fare il militare dalle origini del nostro esercito? Allora, il servizio militare obbligatorio nasce con una necessità, quello di dotare la nazione di un esercito. E nasceva anche dalla necessità di formare tramite la cultura dell'esercito gli italiani. Cioè, nel momento in cui i siciliani, i calabresi, i napoletani, i piemontesi andavano tutti all'interno di una forza armata, si creava una coesione nazionale. Per questo la Grande Guerra, la Prima Guerra Mondiale, è di fatto ormai considerata storiograficamente il momento in cui si realizza di fatto l'unità culturale della nazione. E ci si accorge anche che parlavamo 20 lingue diverse. E in cui tutti parlavano... Ma inizia a esserci anche un rispetto tra le singole regioni, tra le singole persone, perché comunque tutti stavano su un fronte estremo, le montagne, eccetera, a difendere i confini della nazione. E una cosa che anche qui poco si ricorda è che la Prima Guerra Mondiale porta anche il dramma dei profughi che vanno dalle regioni del Trentino, dell'Alto Adige, in tutta l'Italia, vanno nel Meridione. I profughi sono il primo momento in cui la guerra diventa guerra civile e coinvolge migliaia di famiglie. Quindi è questo momento che cambia, ma è un cambiamento anche qui molto breve, perché poi nel momento in cui si arriverà al fascismo e alla Seconda Guerra Mondiale cambiano completamente le carte in tavola. Cambia il concetto di esercito e di nazione. Ecco, mi interessa anche molto un concetto con cui alcune volte tu mi avevi illustrato, proprio sul fatto linguistico. Un militare che dalle zone più profonde di una regione del meridione andava a combattere al nord, si trovava molte volte proprio in una difficoltà di interfaccia con i propri commilitoni, con gli ufficiali, via dicendo. O si doveva scrivere delle lettere a casa, aveva delle difficoltà reali. Non si sapeva di fatto l'italiano. L'analfabetismo era altissimo e anche gli ordini che venivano impartiti nella trincea spesso dovevano essere interpretati, tradotti, i sottotitoli per dare un ordine. Così come le scritture, cioè le lettere, le cartoline, si pensi che durante la Prima Guerra Mondiale circano qualche cosa come milioni e milioni di lettere e cartoline, spesso erano scritte da altri e lette da altri, e quindi era una narrazione della storia comunque molto mediata. C'era quasi una sorta di network necessario perché arrivasse un messaggio dal soldato alla famiglia. Il soldato la dettava all'ufficiale o al sottufficiale e la famiglia leggeva al prete, probabilmente, o al parroco, l'unica persona che sapesse leggere. Ma la cosa interessante è che queste narrazioni della guerra, per esempio, Avete traccia del vostro? Sì, abbiamo migliaia di esempi. Per esempio, noi abbiamo tutte le cartoline che vennero inviate in maniera simbolica al mite ignoto nel 1921. Chi le mandava? Gli orfani di guerra, le vedove di guerra. Comprano queste cartoline che andavano poi in un fondo che doveva servire a... E le scrivevano un'idea. Con un'idea, con il ricordo del defunto. A un personaggio simbolico proprio. Esatto. E noi abbiamo decine di migliaia che ci danno anche un quadro dell'Italia com'era. Ecco, questo concetto della forza armata come specchio dell'Italia in parte si è perso. Scusa, com'era stato scelto il mite ignoto? Me lo ricordi? È proprio ignoto o c'è un margine di, no, di no, consapevolezza chi da quale area potrebbe venire geografica? Il mite ignoto era proprio ignoto, cioè vennero scelte le esumazioni in posti in cui c'erano state una serie di tombe comuni per problemi bellici e la salma non doveva avere niente che lo potesse contraddistinguere come arma, come persona, eccetera. La designazione avviene per una vedova di guerra, anzi una madre di guerra, questa Bergamas, che passa di fronte alle 12 salme, sviene... Guardando le salme proprio? Guardando le tombe, le bare. Alle bare. Sviene di fronte a una e quindi capisce che quella è il simbolo della nazione. E anche lì, la bara del milite ignoto viene portata sulle spalle dalle medaglie d'oro della Repubblica. Cioè tutto un kabuki simbolico. Ma chi si è inventato una liturgia così complessa e così significativa? Allora, ci vuole una bella testa a inventarsi. Diciamo che è una cosa che si verifica quasi simultaneamente in tutte le nazioni e questa segue una sorta di rappresentazione proprio quasi coreografica della morte. C'era stata così, era avvenuta qualcosa di analogo per il primo re d'Italia, Vittorio Emanuele II, al Pantheon e gli stessi onori vengono tributati a milite ignoto. Però qui cambia, non è più il re, è un ignoto. E la sovranità è posta nel cittadino comune, nel soldato. Ecco, proprio perché ignoto rappresenta tutti, quindi un valore immenso. Come il re rappresenta i suoi sudditi, l'ignoto rappresenta tutti i militi. Fermiamoci solo un istante, a tra poco con Marco Pizzo, a parlare delle forze armate, dell'esercito, dei valori che sostengono quella che oggi è una sfilata che voi avrete visto in televisione. Tutti i sabati con voi in diretta qui su Radio 24, la compagnia dei conti della Belva, cioè Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffei, Mario Seminerio e Renato Cifarelli, tutti i sabati dalle 10 alle 12, perché i conti della Belva lo sapete, ma comunque ricapitoliamolo, perché si tratta di spiegare a voi, noi, ma soprattutto di dirci voi in diretta chiamando, ma è vero o meno che la ripresa italiana è così forte come dicono? È vero o meno che lo Stato non è vero che spreca tanti i suoi soldi? È vero che paga i suoi debiti? È vero che non è vero che paghiamo troppe tasse? Insomma, un inizio di fine settimana dalle 10 alle 12 in diretta con un po' di sana indignazione. I conti della Belva, mi raccomando, ascoltateci. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento, vi presenta Melog, cronache meridiane. La vertebra spolpata di un martire di Belfiore è stata conservata come oggetto taumaturgico. Ogni caduto di Belfiore, non per caso, è chiamato martire, alla stessa maniera dei primi testimoni della fede. Anche colui cui appartenne la vertebra è dunque rappresentazione esemplare di chi sia morto per aver vissuto con la schiena dritta. Il reperto osseo è sicuramente un pezzetto dei resti dei 30 martiri di Belfiore, impiccati tra il 1851 e il 1853. Costoro, una volta giustiziati, furono seppelliti per sommo disprezzo degli austriaci in una fossa comune e in terra sconsacrata. Le ossa dei martiri furono ritrovate solo nel 1866 e per una fatalità simile ai miracolosi ritrovamenti ricorrenti nella tradizione di molti santi. La persona che permise che quell'ossicino diventasse una reliquia lo chiuse in uno scatolino. Era un manufatto che aveva la rudimentale pretesa di essere un reliquiario. L'interno era foderato di raso rosso, ma all'esterno qualcuno appose il simbolo della croce. Sembra quasi l'intento di consacrare quell'oggetto, ma allo stesso tempo di compiere un gesto riparatore, un atto di pietà postuma per quella spoglia cui fu negata la cristiana sepoltura. Marco Pizzo, ricordo, direttore del Museo Centrale del Risorgimento a Roma. Ecco, la vertebra di un martire che è stato impiccato, quindi l'osso del collo che gli è stato spezzato, è come avere, che ne so, la testa di un santo decollato, la pelle di un santo scuoiato, esattamente lo stesso meccanismo. È proprio l'oggetto che diventa sacro. E la cosa interessante è che proprio gli eroi della patria vengono in qualche maniera santificati nell'Ottocento e i loro oggetti, le parti del loro corpo diventano qualcosa di speciale che addirittura veniva conservato all'interno dei gruppi risorgimentali. Il paradosso è che ai martiri di Belfiore fu negata persino la cristiana sepoltura, furono buttati in una fossa, come accadde? Per questo fu una sorta di riscatto. Poi... Sì, allora, moltissimi eroi risorgimentali, ma parliamo anche di Pisacane, per esempio, nel momento in cui vennero sepolti in terra che non doveva essere identificata. Con ignominia. Successivamente venne iniziata a essere trasportata questa salma. Perché si intuiva che si voleva evitare il rischio che in qualche maniera diventassero poi dei santi. Sì, ma anche lo stesso Mazzini. Mazzini muore e muore sotto mentite spoglie, con un altro nome. A un certo punto si sa che è morto e si inizia a cercare di conservare tutto, lo scialletto che lui aveva, gli viene fatta una maschera mortuaria. C'è questo senso un po' macabro, ma del senso del corpo, che è del tutto simile. Hanno provato anche a imbalsamarlo, l'abbiamo detto prima. Non sono riusciti, che era troppo tardi. Così come i corpi dei santi che stanno in tantissime chiese italiane, sono imbalsamati, ma spesso sono imbalsamati ottocenteschi. Ricoperti di cera o di plastica addirittura. Il corpo di San Camillo dell'Ellis, famoso santo del 1500, la mummia di San Camillo dell'Ellis che a Roma nella chiesa di Santa Maria della Maddalena venne fatta all'inizio del Novecento da Stivaletti, che è quello che fa oggi gli effetti speciali per i film di Dario Argento. E di cosa è fatta? Di un materiale plastico che non era simile plastico. Beh, anche Padre Pio gli ha messo la maschera di silicone. Naturalmente cambiano le tecnologie nei tempi, una volta usavano oli e medicamenti balsamici, oggi usano materie di siliconi. Ma la cosa importante è che in qualche maniera bisogna far vedere il corpo incontaminato. È la stessa, diciamo, prassi che nella chiesa di Sant'Antonio a Padova si vede la gola di Sant'Antonio, la lingua di Sant'Antonio. Incontaminate nel tempo, proprio perché la santità preserva. La stessa cosa per gli eroi risorgimentali. L'eroismo in qualche maniera preserva dal tempo e quindi rende la carne incontaminata. Qualcuno ha messo sotto vetro il grosso grumo di sangue zampillato da un ignoto martire risorgimentale caduto a Mentana il 3 novembre 1867. Il sangue, fuoriuscito dal corpo del caduto, è stato imprigionato in una rudimentale ampolla di fattura artigianale. Come da sempre racconta ogni maestro di storia, la sorte della battaglia fu determinata dal fatto che i francesi, che affiancavano gli zuavi del Papa, fossero equipaggiati con il nuovo Chassepot, modello 1866, un fucile fantastico a retrocarica che poteva sparare 12 colpi al minuto. Per l'epoca, il Chassepot corrispondeva a quella che oggi chiameremmo un'arma spaziale. Si può ipotizzare che fu proprio uno di quei proiettili a provocare un'esplosione così poderosa da strappare quella massa sanguinosa dalla carne di un combattente garibaldino. Come ancora oggi vediamo, la materia sanguigna sembra ancora misticamente fluida, ma solo perché incastonata, come una santa reliquia, tra due lenti concave che ne esaltano il volume e la lucentezza, permettendone inoltre la visione a 360 gradi. Queste sono reliquie conservate nel tuo museo. Sì, sì, io ho questo bel grumo di sangue all'interno di una bella teca. Assomiglia al sangue di San Gennaro, è inutile non essere blasfemi, ma non vorremmo essere blasfemi, ma questo è. No, il punto di partenza è lo stesso, ma proprio perché c'è il problema di dove mettere il corpo e dove mettere il sangue. Per esempio, una cosa che io ho scoperto da pochissimo. 1870, Porta Pia, chissà la presa di Porta Pia. Ma dove vengono seppelliti gli zuavi pontifici che erano caduti a Porta Pia? Perché oramai Roma era italiana, Roma era del Regno d'Italia. E allora si seppelliscono nel cimitero dei Cappuccini a Via Veneto, perché era una sorta di terra di nessuno, c'era il museo, quello con gli scheletri. Con le ossa, con gli scheletri, eccetera. Lo diciamo per le persone che non sono romane, c'è un posto fantastico in cui, come tutti i musei, come tutte le i sepolcri dei cappuccini, hanno arredato una cripta con le loro ossa, ci hanno fatto disegni, figure allegoriche, e lungo le mura ci sono tutti gli scheletri incappucciati dei cappuccini. Ecco, mentre uno entra in questo cimitero un po' macabro ma meraviglioso, sì, fantastico, cammina sui corpi degli zuoi pontifici. Sono seppelliti sotto. Sono seppelliti sotto, ci sono delle targhette minuscole con i loro nomi, che in genere erano belgi questi zuoi. E quindi diventa una zona di nessuno. Forse nemmeno cristiani, cattolici, romani, nemmeno. Ma probabilmente cattolici lo erano, comunque erano i soldati del Papa. Sì. Ma ecco, viene individuata una terra di nessuno, e ci sono tante terre di nessuno in questo momento. I corpi degli eroi vengono spostati da una parte all'altra. Gli zuoi non sapevano dove mettere, non sapevano dove mettere. Gli ultimi difensori del regno del Papa non sapevano dove mettere. E la cosa divertente, tra virgolette, è che questa sepoltura avviene di nascosto. Cioè i nomi vengono scritti da una parte, ma molto così, e si sa solo leggendo i documenti che stanno all'interno dei cappuccini. Beh, diciamo che non c'era interesse a nessuna parte poi a ricordare quei morti, che in fondo ci sono passati sopra alla fine. Sì, sono morti, ma c'era un pochino, c'era l'interesse di tutti a non ricordarli, ecco, diciamo. Ecco, è l'altra faccia della medaglia del milite ignoto. Tutti i morti della prima guerra mondiale, alla fin fine non si sapeva troppo molto bene dove erano andati a finire. Quindi si prende un corpo che diventa il simbolo di tutti. Beh, ancora ne trovano, diciamo recentemente, ogni tanto ne trovano qualcuno, quando si schiacciano i ghiacciai, riappare, riaffiora qualche morto ancora della prima guerra mondiale. E la cerimonia del milite ignoto, che è del 1921, venne anticipata fin dal 15 in maniera assolutamente inconsapevole, quando qualche madre romana aveva la perdita del figlio o qualche sposa del marito, andava a mettere dei fiori sul Vittoriano. È per questo che si sceglie anche il Vittoriano, perché già era entrata a livello popolare nella tradizione. Ah, era la tomba simbolica di tutti i morti di cui non si aveva più traccia. Esatto, e si vedono queste rarissime immagini del Vittoriano con tutti questi mazzi di fiori. Che erano le madri dei soldati dispersi. E quindi è un movimento che parte dal basso in questo momento, è una tradizione popolare, un po' come vedere in questo monumento che a molti sembrava inutile, a che serve il Vittoriano, se il Vittorio Emanuele II... alla fin fine stava al panto, è un cenotafio, non c'è neanche il corpo. Quando nacque qual era l'idea proprio? Di costruire un grande monumento al ricordo del primo re d'Italia. Quindi ancora non c'era l'idea di una guerra mondiale, no. Assolutamente, era lontanissima l'idea. Era mettere lì un monumento, il corpo naturalmente no, al panto, tra i grandi della patria. Ma questo complesso monumentale doveva in qualche maniera rappresentare a Roma, non a caso accanto al Campidoglio, il momento simbolico della nuova Roma. E perché fu scelta un'architettura così diversa, diciamo, da quello che ci aveva intorno? Fu criticata per tantissimo tempo, dicendo che la chiamano la macchina da scrivere, non c'entrava nulla con quello, volevano demolirla. Come mai fu fatta una scelta così forte? Una che oggi ha un senso poi. Deliberata, proprio di far vedere lo scarto. Alla Roma dei Papi era succeduta una nuova Roma, la Roma tra virgolette moderna del progresso, e quello era un nuovo monumento simbolico che era completamente diverso da tutto il resto. Anche per il materiale, il marmo bianco, che è il botticino che veniva da Brescia, naturalmente Zanardelli era il ministro dei lavori pubblici e non a caso era di Brescia, va bene. Fece un favore al suo collegio, capito? A chi forniva marmo al suo collegio. Però di per sé è anche un colore non romano, è il colore della Italia settentrionale. Ah, ecco per quel. E questo simbolo fu poi fortificato, amplificato da Mussolini quando sfondò tutto e ci fece la via dei fori imperiali. Proprio perché allora diventa veramente un altro simbolo, la Roma, quindi via dei fori imperiali, il Colosseo, e la Roma di Mussolini. Quindi è una strada di unione simbolica fra questi due mondi, il Colosseo, l'antica Roma, il foro e il Vittoriano. E diciamo che la politica... E Piazza Venezia in fondo. Di demolizione del foro romano di Mussolini era anticipata ben prima dai costruttori del foro romano, che buttano giù la torre di Paolo III del 1400 con gli affreschi del Pinturicchio. È roba minore, se può buttare giù. Quando la buttavano giù? Nel 1890. E ci stanno le note di un grandissimo storico dell'arte, Cavalcaselle, che dice: sì, vabbè, ma ci stanno tanti affreschi di Pinturicchio, anche se perdiamo questi non è un gran danno. Per tirar fuori le rovine. Esatto. E non ci sono rappresentazioni, non c'è nessuna traccia di questi affreschi? Ci stanno rarissime... No, degli affreschi niente assolutamente. una descrizione. Sì, delle relazioni delle commissioni di scavo, ma la cosa divertente è che tutto completamente viene demolito e i pezzi di questa grande demolizione sono ancora conservati nelle ventri del Vittoriano. A voi c'avete i pezzi della chiesa? Quindi c'avete dei rimasugli di pittura? Dei rimasugli del... È sempre interessante andare a scoprire cosa è nascosto nei bassi fondi del Vittoriano, che solo Pizzo, di cui solo Pizzo ha le chiavi. Ci sentiamo fra un istante. Melog. Cronache meridiane. Mi sono sentita fuori posto dappertutto e sempre. E non mi sento bene se non quando sono accanto ad esseri superiori. Solo chi indovina chi io sono veramente, mi ama. Allorché vivevo in società, sono stata giudicata altera e superba con i miei uguali. O almeno con quelli che le leggi umane mi hanno costretta a trattare come tali. Ho fatto sforzi sinceri per mitigare questa mia fierezza. Perché mio malgrado e la compagnia della maggior parte degli uomini e delle donne mi fa provare una stanchezza, un disgusto, che assomigliano stranamente, lo ammetto, ad un disprezzo totale. Per questa ragione mi sono sempre spostata. Indipendente, sempre. E soprattutto al riparo da... Questa è Cristina Capotondi che dà la voce alla contessa di Castiglione. Ecco, tu adesso ci dici, Marco Pizzo, chi era la contessa di Castiglione, perché vorrei concludere parlando della presenza femminile in questa grande costruzione dell'idea delle forze armate, che poi sono, diciamo, l'elemento più alto della coesione della patria. C'è anche un elemento femminile, oggi rappresentato dalle soldatesse che sfilano, che è la parte più avanzata, più moderna, più orgogliosa del nostro esercito, ma le donne avevano un peso, oltre che essere madri che sceglievano le salme dei defunti. Allora, la contessa di Castiglione ha un ruolo fondamentale nel Risorgimento italiano. È di fatto una di quelle che realizza gli accordi di Plombier, per cui Napoleone III poi interviene al fianco dell'Italia e lo spinge questo accordo con tutte le sue forze. Cioè, è l'amante di Napoleone III, era una donna molto bella che contemporaneamente riusciva a dominare la scena parigina grazie proprio al suo corpo e alla sua bellezza. Non a caso lei si fa ritrarre da un fotografo tutti i giorni della sua vita. Addirittura mi sembra ricordare una foto con le sue gambe nude dal ginocchio in giù, cosa che era oggi come far vedere le viscere, non lo so. E si fece fotografare le gambe nude. E allora questa protagonista, che in genere è stata un po' bistrattata anche dalla storiografia risorgimentale come un po' l'amante di Napoleone III. Beh, era qualcosa di più però, Ecco, questo brano che abbiamo sentito rappresenta invece una nuova consapevolezza femminile, cioè di chi sa quello che fa, sa qual è il suo potere, sa anche qual era il suo ruolo all'interno della scena politica. Nei balli di corte è famosissimo un suo vestimento. Lei si presentò a un ballo di Napoleone III vestita da notte, ma praticamente nuda, con solo la luna. E fece un grandissimo scandalo nella Parigi dell'epoca. Ecco, questa volontà di scandalizzare non era però fine a se stessa, era finalizzata a imporre un nuovo ruolo della donna che inizia durante il Risorgimento italiano. Sulla figura invece femminile, in tutto questo apparato che abbiamo visto, descritto, capito come nasce, capito quali sono i suoi punti di forza e figure simbolo, qual è stato il ruolo delle donne dall'inizio della storia di ciò che chiamiamo esercito italiano? Allora, le donne all'inizio hanno vissuto un po' da coprotagoniste, specie durante il 1849, la Repubblica Romana. Le donne sono un po' quelle che accudiscono i feriti, sono un po'... Poi ci sono esempi di donne combattenti, mascherate da uomo ma combattenti. Sì, ma sono un po' sempre in maniera un po' limitata. Come supereroine, capito? Supereroine che affrontano in qualche maniera il combattimento dell'eccentricità, comunque dell'eccentricità assoluta anche durante la prima guerra mondiale. Noi abbiamo delle donne che si mascherano da uomo per andare a combattere al fronte e queste ci sono delle foto su Illustrazione Italiana chiarissime a riguardo. Lo sapevano che erano donne? No, non lo sapevano. Mentono sulla loro realtà sessuale. Beh, sembra la storia di Mulan, un cartone della Disney che va al posto del padre a combattere vestendosi da uomo. Sì, ma questo esiste in parte durante il Risorgimento, ma la cosa importante è che durante l'Ottocento c'è una emancipazione femminile progressiva in cui al ruolo definito di figlia, di moglie, eccetera, si affianca una nuova realtà della donna consapevole che inizia a fare delle cose e che troverà la sua espressione massima di nuovo durante la Prima Guerra Mondiale, in cui le donne diventano crocerossine e per questo, cioè per diventare crocerossine, vengono espulse dalla società perché erano considerate, tra virgolette, malafemmine. Stavano lì a fare delle infermiere anche da sole in mezzo a soldati, che figuriamoci, che è il fior fiore dell'attizzamento maschile, invece facevano un'operazione quanto mai importante. Ecco, tutto questo è uscito fuori vedendo proprio le lettere che si scambiavano le crocerossine con i familiari. Ma le donne anche entrano in fabbrica, ma con un nuovo ruolo. Da sempre le donne lavoravano nelle fabbriche nell'Ottocento, ma con la Prima Guerra Mondiale sostituiscono gli uomini nei lavori anche pesanti. Cioè, questa uguaglianza nasce con la Prima Guerra Mondiale. Per questo poi... È come se avessero fatto la guerra a tutti gli effetti. Comunque, stavano al fronte come crocerossine e facevano i lavori pesanti dei maschi in zona non di combattimento. Per questo, quando poi arriva il fascismo e dice no, la donna deve essere di nuovo moglie, madre e tutto quanto, è una soluzione in qualche maniera anacronistica. Fa fare un passo indietro. Infatti l'impressione è che ci sia stata una maggiore emancipazione femminile in quell'epoca lì rispetto agli anni successivi. Ma sicuramente, se noi vediamo le vite di tante persone del Risorgimento, vediamo che si muovono continuamente, vanno in Italia, in Francia, in Turchia, ma anche non a livello aristocratico, anche a livello popolare, c'è una mobilità diversa che in qualche maniera viene chiusa durante il fascismo, ma perché si vuole invece portare avanti un'idea più consolatoria della figura madri e fattrici di figli, questo essere. Recuperando l'Italia tra virgolette rurale, ma un'impresa impossibile, oramai il tempo era passato. Grazie Marco Pizzo, grazie a quanti ci hanno ascoltato, questo è stato il nostro mesto, modesto ma intenso contributo alla giornata di oggi, giornata del 2 giugno. Alla prossima.